Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, ecco Insargante e Traghettatore, continuiamo il nostro viaggio sull'economia sociale. Questa puntata, peraltro, entriamo proprio in pancia al tema dell'economia sociale, perché per esistere un'economia sociale ci vogliono gli imprenditori sociali. E gli imprenditori sociali bisogna anche formarli, questa è la verità, a meno che non ci siano delle vocazioni, ma quella è un'altra storia. Oggi parliamo della Global Social Venture Competition, come dice la parola stessa, quindi sostanzialmente una gara, anche se le virgolette sono d'obbligo. Questa gara è diretta ai giovani del mondo, quindi non solo italiani, che hanno idee, propositi, voglia e forse anche un minimo anche di capacità di intraprendere imprese sociali, che è il business di oggi, che si sta trasformando e che servirà ai people, al planet e al profit, come sempre in questo programma vi sentite ripetere. È un'iniziativa internazionale che è promossa dall'Università di Berkeley, che è stata sposata in Italia e quindi condivisa, e adesso ci facciamo spiegare anche come e fino a che punto, dall'Altis dell'Università Cattolica di Milano. Con noi c'è il professor Mario Molteni, che è il direttore. Buongiorno professor Molteni. È un'iniziativa secondo me assolutamente atipica, perché qua non vanno in passerella, cioè non si premia il più bello, ma si premia che cosa? È un'iniziativa in cui si premia l'impresa che sia in grado contemporaneamente di avere un buon risultato economico e un ottimo impatto sociale e ambientale. Quindi questi sono i due criteri di valutazione delle iniziative. Non è poco, perché stiamo parlando ai giovani, li stiamo invitando a immaginare un'impresa, che non è esattamente la vocazione in questo paese, anche a livello universitario. Sì, noi ci rivolgiamo sia a chi ha un'idea e che quindi sviluppa quello che si chiama un business plan, in cui esplicita tutti gli elementi di questa idea, sia a chi già è partito negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Poi in che senso intervengono i giovani? Perché i giovani possono essere o direttamente i protagonisti, gli imprenditori, oppure possono essere membri del team imprenditoriale, per cui in qualche caso c'è una persona più matura ma che ha coinvolto un giovane nello sviluppo della propria attività. Per entrare subito nel tema, poi lo approfondiremo ancora, giusto per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando quando si definisce un'impresa sociale. Qualche esempio a memoria, professore, delle cose che ricorda. Ecco, no, io ci terrei a dire questa cosa, perché il concetto di impresa sociale noi lo intendiamo all'americana, cioè l'impresa sociale americana non è un'impresa necessariamente non profit, è un'impresa che combina le due dimensioni, quindi è un'impresa che può benissimo avere degli obiettivi di profitto e che ha appunto questa sua rilevanza sociale ambientale, quindi non è l'impresa sociale strettamente intesa all'italiana. Dopodiché le iniziative possono essere diverse, ci può essere un'iniziativa che ha un forte valore per la salute della popolazione e quindi il valore sociale è evidente, ci può essere un'iniziativa nell'ambito delle energie rinnovabili per cui c'è un impatto di tipo ambientale evidente, sempre combinata con una dimensione economica, perché molte di queste iniziative sono anche interessanti per un venture capitalist, cioè per un soggetto finanziatore che ha delle attese di ritorno economico. Abbiamo visto anche, leggendo fra le righe dei vari progetti presentati, che il internet, il web, è comunque un grande protagonista sempre, anche a prescindere dai settori che si toccano. Assolutamente, perché ormai molte delle nuove iniziative che partono sono iniziative che hanno nel web uno degli elementi fondamentali. Quindi anche le iniziative sociali vanno in questa direzione. Adesso, senza voler concludere nulla, dico, ma giusto per fissare un primo paletto, poi apriamo il microfono ad uno dei giudici. L'impresa sociale è un'impresa che si occupa del tessuto, non necessariamente quindi della solidarietà, ma del tessuto sociale della gente, del territorio, dell'ambiente, che fa profitto e che si muove ormai sulle nuove frontiere del digitale. Sì, che può far profitto, nel senso che, uno dei nostri partecipanti ha presentato un'idea per una serie di piccoli impianti fotovoltaici per produrre energia rinnovabile da utilizzare per la ricarica dei telefoni cellulari nei villaggi del sud del mondo. Una cosa che sarebbe interessantissima perché consente di mettere in contatto ciascun villaggio con il resto del mondo. Questa è un'iniziativa, per esempio, che nasce con un profilo particolarmente social, nel senso che non ha degli obiettivi di ritorno. E questo è un caso. Un altro caso che abbiamo visto, per esempio, invece è una soluzione non invasiva per la diagnosi dell'osteoporosi, che in questo caso invece è un'iniziativa che implica degli investimenti molto forti e anche un ritorno economico significativo. David Crackett, che è al telefono con noi, buongiorno. Buongiorno. È uno dei giurati, lei è un dirigente di Deloitte & Touch, una importantissima società, una delle più importanti di consulenze. Ecco, dottore, chi sono i giurati? Cioè, quali sono gli elementi di valutazione dei progetti presentati a cui fate riferimento? Allora, ci sono più elementi. Innanzitutto la qualità del business plan stessa, che nel caso del vincitore è ottimo, però è l'aspetto, come diceva adesso il professore, di poter combinare l'elemento del profitto, della redditività dell'impresa, con un grosso contributo alla questione sociale nel senso lato. Quindi direi che questi sono i due elementi più importanti. Poi è chiaro, un business plan è uno strumento molto complesso e quindi siamo entrati in un grande dettaglio, però meglio focalizzare su questi due aspetti principali. C'è anche chiaramente valutata anche la fattibilità. Un bellissimo progetto è realizzabile, probabilmente non vale la pena premiarlo, giusto? Certo, infatti alla fine il punto più importante nella selezione del vincitore in assoluto era proprio la fattibilità, era quello che ci ha convinto di avere una fattibilità a ragionevole breve termine in termini più concreto. C'era un altro elemento che mi aveva un po' stupito positivamente: la giuria valuta le candidature nel corso di una sorta di full immersion, vi vedete tutti insieme, valutate, quindi una decisione molto trasparente va da sé, ma anche corale, è così? Sì, assolutamente. Cioè, dietro c'era un gran lavoro, perché abbiamo dovuto, prima del finale della competizione, abbiamo dovuto studiare tutti questi business plan in dettaglio. Poi c'è stato l'elemento della presentazione venerdì scorso, dopodiché ci siamo incontrati tutti insieme, la giuria, a fare un dibattito molto approfondito, anche molto caldo, direi, per arrivare a una conclusione basata su un voto segreto. Secondo lei, lo dico come giurato, c'è un dato comune in questi progetti presentati che si associa in qualche modo anche, come dire, all'idea del giovane che ci prova a fare impresa? Stiamo parlando anche di imprenditori che arrivano, non so, dal Ghana, come il vincitore, lo conosceremo, o anche da paesi, diciamo, difficili, controversi. L'entusiasmo. Una parola. Una parola, infatti, aspettavo che continuasse. Quello che avevano in comune è stato l'entusiasmo, perché i progetti erano molto varie, le persone c'erano giovani, ma non solo giovani, perché c'erano anche alcuni imprenditori più anziani, e era con un grande spirito di giovinezza, ma alla fine quello che avevano in comune era l'entusiasmo e la volontà di essere positivo e di produrre un'impresa, di creare un'impresa con redditività che potrebbe dare un aiuto all'aspetto sociale del mondo. La lascio con un'ultima domanda, che poi è più, come dire, desiderata, è una sensazione che butto lì e poi chiederò anche al professor Molteni. Questo aprirsi alla frontiera dell'imprenditorialità molto digitale, quindi anche dal punto di vista degli investimenti controllabile, diciamo così, potrebbe essere la naturale evoluzione del sistema, per esempio, italiano delle piccole e medie imprese? Ah, certamente, perché è un aspetto essenziale nel mondo in cui viviamo, anche se bisogna dire che il vincitore in assoluto della competizione era ben lontano da questo mondo, infatti torna proprio alla sua terra di origine per piantare degli alberi e ricreare un ambiente che è stato distrutto nel tempo, ma molti altri di questi concorrenti erano molto avanzati con delle idee brillanti nel utilizzare le tecniche più moderne di comunicazione per sviluppare delle opere molto interessanti. Grazie dottor Krakiet, grazie di aver partecipato. Professor Molteni, chi sono, come è composta la giuria? Perché era importante, vorrei dire, a questo punto mirarla bene, non è una giuria formale, sostanziale. Assolutamente, innanzitutto una giuria nutrita, 18 elementi, che sono espressione dei diversi mondi che ruotano attorno a questo premio. Innanzitutto c'è il mondo, diciamo, della consulenza, David Krakiet, che abbiamo appena ascoltato, è un esponente di questo mondo. Poi, importantissimo, c'è il mondo della finanza, che ha particolare attenzione a due dimensioni, innanzitutto proprio allo startup, all'inizio di nuove imprese, e poi a questa dimensione sociale. Allora adesso io non vorrei far torto citando uno o l'altro, però per esempio c'era il segretario generale Tommaso Marzotto Cautorta di un'associazione che si chiama IBAN, che sta per Italian Business Angels Network, cioè i business angels sono proprio quei soggetti che hanno che hanno come loro missione quella di favorire lo sviluppo di nuove imprese, evidentemente con un'attesa di ritorno economico importante. Un altro mondo importante che è implicato è proprio quello dell'università, per cui oltre evidentemente dei rappresentanti dell'Università Cattolica abbiamo ospitato nella giuria altri soggetti, un mio caro collega Perrini della Bocconi e un esponente del Politecnico di Milano. Ecco, un elemento forte che non abbiamo citato ma che vale la pena adesso sottolineare alla fine di questa prima parte, poi sentiremo dalla voce dei protagonisti, è che non finisce qui, cioè anzi è l'inizio, perché chi ha vinto il Global Social Venture Competition adesso sbarca sul mercato internazionale, sulla competizione si allarga. Diciamo, ci sono due modi per proseguire da parte di questi imprenditori. Innanzitutto tengo a sottolineare che il nostro è un premio che ha assolutamente un senso compiuto nel contesto italiano, ma è anche l'Italian Round, no? Cioè, come dire, la manifestazione italiana di un premio che poi va in Europa, nel senso che viene governato dalla London Business School appunto di Londra, e che poi arriverà alle finalissime a Berkeley in California. Quindi questo vuol dire che i nostri vincitori parteciperanno anche alla semifinale e poi alla finale. Questa è una prima dimensione. L'altro modo di continuare è che i premi che abbiamo pensato sono premi, diciamo, in capitale intellettuale, nel senso che hanno i nostri vincitori hanno la possibilità di partecipare a un nostro master per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e avranno anche una consulenza di un ente che è Hub Milano, che svolge proprio attività, diciamo, di supporto delle nuove imprese. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Di nuovo in studio con Ferry Boat e con il sergente traghettatore e con il professor Mario Molteni, con cui abbiamo parlato fino a questo momento di Global Social Venture Competition, che, pensate bene, una competizione internazionale che parte dalla California, da Berkeley, arriva fino alla Cattolica di Milano, che spinge i giovani a presentare progetti di impresa sociale con tanto di business plan. Alla fine di questo percorso c'è stata una selezione, adesso vi facciamo conoscere alcuni dei brillanti vincitori qui in Italia, e poi il viaggio verso la California nel pieno, come dire, degli stereotipi del sogno americano. Professore, il premio, stavamo dicendo prima dell'interruzione sul traffico, stavamo dicendo che il premio è un premio in realtà intellettuale, di apertura, di contatti e di, certo, opportunità. Beh, il fatto stesso di risultare tra i vincitori vuol dire evidentemente una certa notorietà, la possibilità di moltiplicare i propri contatti. Poi un premio, diciamo, implicito è il fatto stesso che sia la giuria sia altri diciamo, spettatori sono persone del mondo della finanza e quindi possibili interessati a investire i propri capitali nell'ambito dell'impresa. Poi ci sono i premi veri e propri che sono, come dicevo, da una parte la possibilità di una formazione imprenditoriale per una persona che l'imprenditore indicherà, potrebbe essere l'imprenditore stesso o un suo collaboratore, e quindi sostanzialmente un'occasione di rinforzare il team imprenditoriale che poi è il cuore del business plan. E l'altro premio è un premio in termini di consulenza, affiancamento per un periodo più o meno lungo. Anche questo è molto importante perché chi è nella fase di startup sa di aver bisogno moltissimo di chi ha fatto esperienze precedenti di startup. Quindi non stiamo parlando di un premio di bellezza, insomma, ma di sostanza, vero? Alessandro Figgini, che è il vincitore dell'edizione 2009, peraltro la prima, perché adesso questa del 2010 è la seconda. Alessandro è al telefono. Buongiorno. Eccoci collegati. Allora, l'anno scorso la proposta di Alessandro Figgini ha convinto la giuria. Che proposta di impresa era, di impresa sociale era? Era una proposta di una cooperativa sociale chiamata la Contrada degli Artigiani, con sede a Como, dove attraverso il mondo del lavoro riferivamo ragazzi che hanno abbandonato i normali percorsi formativi scolastici e nel rapporto con artigiani, falegnami, tessitori, gli offrivamo la possibilità di costruire sedie, mobili antichi, e aggiungendo a questo valore educativo anche il fatto che la maggior parte di questi mobili erano mobili che dovevano essere scartati, buttati. Noi li recuperavamo e li offrivamo attraverso l'abbellimento di essi, offrivamo sedie artistiche, mobili molto curati, e li siamo andati a vendere in alcune fiere e aste. Questa ipotesi di impresa è diventata un'impresa nel frattempo? Sì, è diventata un'impresa che esiste da un anno e mezzo a Como, e si sta sempre più ingrandendo anche grazie a dei contatti che sono nati anche dopo il concorso a cui abbiamo partecipato l'anno scorso, e anche contatti personali anche a livello internazionale. Ad esempio, in settembre siamo stati, ecco, siete andati, stavo chiedendo proprio quello, avete partecipato al finale, diciamo, mondiale, no? Alla finale mondiale non abbiamo partecipato, però abbiamo partecipato al round nazionale che c'è stato l'anno scorso appunto in Italia. Poi da questa cosa sono nati dei contatti, e uno dei quali ci ha permesso poi di andare anche a Parigi in settembre, esporre i nostri prodotti in una vetrina a Parigi e poi venderli a un'asta. Quindi diciamo che è una realtà che si sta ingrandendo in questi anni. Quindi adesso, a prescindere dal contesto di cui abbiamo parlato, di cui continueremo a parlare, del Global Social Venture Competition, dici, Alessandro, come sta andando? Perché certo non è un periodo brillante per l'economia in generale, italiana anche, voglio dire. Come vale? Le sensazioni che tu hai sono positive, di fiducia? Sta funzionando questo business? Questo business sta funzionando, anche se chiaramente nell'ultimo anno abbiamo lavorato soprattutto su commessa, per cui ad esempio adesso si sta lavorando alla realizzazione di un albergo sul lago di Como, che è stato dato tutto su commessa a Contrada degli Artigiani, quindi sia la realizzazione delle stanze, degli esterni, dell'interno, si sta ristrutturando questo. Quindi seppur si sente la crisi, perché magari a livello di singoli prodotti le vendite non si stanno espandendo tantissimo, però le possibilità soprattutto di questo tipo, per cui arredare ambienti interi, ci sono sempre, per cui questo fa ben sperare per il futuro. Quanti anni hai, Alessandro? 22. Non giovane, di più. Grazie Alessandro, in bocca al lupo, conta sempre. Grazie. Su di noi. Arrivederci. Professore, appunto, voglio dire, queste sono emozioni anche, perché è chiaro che a 22 anni avere già un percorso del genere vuol dire molto, no? Anche la contaminazione possibile. Io penso che sia un'esperienza straordinaria da questo punto di vista, perché comunque vuol dire... Anche una bella idea, tra l'altro, questa qui. No? L'idea, appunto, io ricordo dallo scorso anno, è realmente eccezionale, in quanto alla fine ciascun prodotto diventa un prodotto unico e quindi si rivolge a un segmento di mercato molto sensibile all'aspetto artistico. Che poi nelle radici della nostra cultura, delle assolutamente, nostre tradizioni. Assolutamente, quindi dal punto di vista sia sociale sia artistico, quello è un progetto interessantissimo. Dal punto di vista delle persone, perché lui non è l'unico dei giovani che fanno parte appunto di questo team imprenditoriale, penso che sia un'esperienza realmente interessante dal punto di vista personale. Io mi auguro che questa esperienza sia durevole dal punto di vista dell'impresa, ma certamente sarà formativa per quelle persone, perché a 25 anni prendere un personaggio di questo tipo vuol dire attingere, diciamo, a un tipo che certamente ha una marcia in più rispetto a chi semplicemente ha studiato. Beh, senza nulla togliere, ovviamente non sono ragazzi che puntano alla valigetta, al telefonino, a fenomeni di yuppismo ormai tramontati, ma che ancora serpeggiano forse fin troppo. Sì, sì. Il vincitore non avevamo specificato, ma era una sorpresa finale per chi ci ascolta, che dall'Italia possono accedere ovviamente anche dal sud del mondo, cioè è una finestra internazionale, tant'è vero che quest'anno, ed è con noi in collegamento, ha vinto un giovane del Ghana che si chiama Joseph Tete Kwarshi, che è al telefono. Ciao Joseph. Hello. Ecco, a Joseph chiediamo, con l'aiuto di un interprete, di raccontare, di spiegare qual è l'idea che quest'anno gli ha consentito di vincere il Global Social Venture Competition. Allora, my company is called Greenwaves International. It was registered last year. Now, the objective is to engage. Il mio progetto si chiama Greenwaves International e si occupa della riforestazione in grandi dimensioni della terra tropicale abusata e abbandonata nello stato del Ghana, nell'Africa occidentale. Intendiamo piantare più di 1 milione di alberi, in particolare alberi tropicali, che hanno una particolare efficacia nell'assorbire le emissioni di CO2. Una volta piantati questi alberi, finora ne abbiamo piantati 600, intendiamo fare domanda per i crediti sulle emissioni di anidride carbonica, che sono destinate al sistema volontario previsto nel protocollo di Kyoto. Il nostro progetto sarà registrato presso il segretariato della United Nations Framework Convention on Climate Change, la convenzione ONU che si occupa del clima, dal quale i paesi che si trovano in difetto nel loro impegno di ridurre le emissioni previsto dal protocollo di Kyoto possono acquistare i crediti mancanti. A nostro avviso, infatti, la maggior parte dei paesi sviluppati non ha raggiunto il livello di riduzione di anidride carbonica richiesto dal protocollo da loro sottoscritto e quindi, in base agli accordi, potrebbero acquistare i crediti dai paesi in via di sviluppo. Questo progetto è molto sostenibile perché ha un impatto sociale, ambientale ed economico. It has significant social, environmental and economic impact. Grazie, anche perché salutiamo Joseph Tete Kwarshi, lo ringraziamo. Professore, un'altra cosa che mi piace sottolineare è che questi giovani a questo punto ambiscono anche ad avere un ruolo, no? Cioè, non si occupa del vendere, scusi, turaccioli di sughero o di cambiare le gomme alle automobili, con tutto il rispetto ovviamente dei due mestieri che abbiamo citato, ma per esempio, come il caso di Joseph Tete, si punta in alto, si punta al pianeta, alla salvaguardia, alla salute, il benessere. Cioè, assolutamente, nel senso che sono iniziative imprenditoriali, diciamo, di nuova generazione. Qui c'è una grande opportunità a livello internazionale, particolarmente per il sud del mondo, che è tutto il mondo dei carbon credit, di questo nuovo mercato, e il fatto che ci sia riusciti ad intercettare un imprenditore di questo tipo ci dice un po' della qualità anche della Global Social Venture Competition. Global Social Venture Competition 2011, a questo punto, sperando che il nostro ghanese torni vincitore dalla California, non parliamo soltanto di giovani della Cattolica, ovviamente va da sé, ma lo chiariamo, giusto che siamo qui in diretta, riguarda tutti i giovani che invitiamo a partecipare ad una competizione. Ecco, se posso, questo vuole diventare il premio di riferimento della nuova impresa in Italia, e quindi noi non ci rivolgiamo esclusivamente ai giovani, ma chi ha una idea di impresa in queste caratteristiche. I giovani poi avranno la possibilità specificamente di andare fino a Berkeley, ma noi vogliamo realmente diventare il punto di riferimento per tutte le nuove imprese sociali. L'invito è chiaro, anche i conduttori possono partecipare a queste idee. Assolutamente sì. Dovete voi dimostrare la qualità sociale e ambientale dell'idea. Siamo in grado di farlo. Signori, avete ascoltato Ferri Botti, sono Enzo Ergante Traghettatore. Vi ricordo che la trasmissione, e ne vale la pena, si può riascoltare sul sito di www.radio24.it. Grazie, al prossimo appuntamento.